orgoglio, paura, a questo assistiamo, in una catena impressionante di suicidi, un lungo bollettino di una guerra mai dichiarata ma che è in corso, una guerra di cui le istituzioni non sembrano accorgersi a nessun livello. Per questo Radio 24 ha deciso di reagire. Il primo passo è dare voce agli imprenditori in difficoltà. Scriveteci le vostre storie all'indirizzo mail disperatimai@radio24.it. Raccontateci le difficoltà con cui dovete fare i conti. Ne parleremo nei nostri programmi. Radio 24 è al vostro fianco. Non vi lascia soli. Scriveteci all'indirizzo disperatimai@radio24.it.